Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Confindustria, crescita inadeguata per uscire dalla crisi. Padoan dice l'Europa apprezza le riforme, ma bisogna fare di più. Mille proroghe verso il via libera. Il governo annuncia che cambierà la norma su Flixbus. Oggi sciopero all'Italia. Caporalato, 6 arresti per la morte di una bracciante italiana un anno e mezzo fa, in manetta anche il titolare di un'agenzia per il lavoro interinale. Stadio della Roma, ancora polemica dopo l'idea di Grillo di farlo da un'altra parte. Fiumicino si candida. Pubblico impiego, arrivano oggi decreti per la valutazione dei dipendenti e per i nuovi organici. Dopo le palme, i banani in Piazza Duomo a Milano. Sono una quarantina piantati nella notte. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Scriveteci, abbiamo deciso un po' che da qualche giorno proveremo a leggerne qualcuno di più, ovviamente, se saranno pertinenti. Effetto Giorno, @radio24.it invece, se ci volete scrivere. Iniziamo dunque da Confindustria e dal Centro Studi, il punto con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. L'incertezza politica può essere un macigno sulla crescita economica italiana. L'allarme di Confindustria dopo quello dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Secondo la congiuntura flash pubblicata da Viale dell'Astronomia, il PIL italiano aumenterà a ritmo lento anche nel primo trimestre del 2017, dopo lo 0,2% nel quarto trimestre 2016 e 0,3% nel terzo. Il Centro Studi spiega poi che il ritmo italiano rimane ben inferiore a quello dell'Eurozona, vicino al 2%, perché frenato dalle incertezze. Industria ed export, prosegue la nota di Confindustria, trainano il PIL, ma la domanda interna risente dell'instabilità politica, quando ogni sforzo andrebbe dedicato al rilancio dell'economia e al sostegno dei posti di lavoro. Il credito rimane erogato con il contagocce. I contrasti poi sui tassi tra Fed, intenzionata ad alzarli, e BCE, che continua a tenerli bassi e che non intende cambiare rotta, spingono il dollaro rispetto all'euro, mentre i tassi sui titoli sovrani iniziano a riflettere le tensioni economiche e non. Che cosa vuol dire? Che si potrebbero verificare incertezze sui mercati riguardo agli spread. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. E a proposito di Banca Centrale Europea, ci sono da registrare di oggi le dichiarazioni di Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank, che conferma una posizione più moderata rispetto alle posizioni, per così dire, da falco del passato. Dice: si può discutere se la BCE debba o meno rivedere la sua forward guidance sulla politica monetaria, ma al momento la posizione espansiva di Francoforte rimane appropriata e le pressioni sui prezzi sono ancora relativamente basse. Siamo all'approvazione del decreto mille proroghe, che dovrebbe arrivare tra poco. In linea con noi Teresa Trillò per fare un punto. Teresa, vai. Sì Simone, buongiorno. Allora, questa mattina la Camera ha approvato alcuni ordini del giorno a favore di Flixbus, la startup di Monaco di Baviera che effettua servizi autobus extraurbani a tariffe low cost in tutta Europa ed è approdata in Italia 2 anni fa con i suoi bus moderni accessoriati anche di wifi. Al Senato, ricordiamo, nel decreto mille proroghe era stato inserito anche un emendamento che rischiava di bloccare questo servizio, perché prevede che solo gli operatori del trasporto e non le piattaforme digitali possano ottenere l'autorizzazione ad operare su le tratte interregionali. Gli ordini del giorno di oggi impegnano il governo a sopprimere con il primo emendamento utile la norma denominata Flixbus sui criteri necessari per svolgere il servizio autobus. Intanto, dicevamo, sul decreto mille proroghe ieri sera il governo ha incassato la fiducia alla Camera con 337 sì e ora sono in corso le dichiarazioni di voto per l'approvazione del provvedimento. Il voto finale è previsto a breve. Da Roma è tutto e ti restituisco la linea. E grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. E dopo i blocchi record dei taxi, a prescindere dall'emendamento che ha scatenato la protesta, il futuro del settore tra Uber Taxi e nuove realtà resta incerto. Intanto c'è chi copre il vuoto normativo a colpi di sentenze. A bloccare Uber Pop in Italia nel 2015 fu una sentenza del Tribunale di Milano che mise al bando gli autisti senza licenza. La versione che aveva fatto la fortuna dell'app californiana nel mondo, trasformando chiunque possedesse un'auto in un autista, da noi diventò fuorilegge. Allo stesso modo, ora, per coprire il vuoto normativo di un settore in profonda trasformazione, il Consiglio di Stato dà ragione a Comune di Milano e Polizia Locale contro gli autisti Uber Black, cioè gli autisti con autorizzazione, gli NCC secondo le norme vigenti. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza. Su 130 multe, 105 hanno visto la completa vittoria della polizia locale e degli altri pochi casi sono ancora in discussione, ma anche questi vengono impugnate e le sentenze magari favorevoli dei giudici di pace, ma quando si va ai livelli superiori vinciamo anche questo, quindi di fatto le stiamo vincendo tutte. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, abbiamo parlato di Flixbus e quindi di Pullman, abbiamo parlato di taxi e di Uber, parliamo di trasporto aereo perché oggi c'è lo sciopero di Alitalia. Giornata meno difficile del previsto oggi negli aeroporti per una serie di agitazioni legate alla crisi dell'Alitalia e al settore del trasporto aereo. Disagi limitati negli scali sardi, dove la compagnia ha cancellato 22 voli e Meridiana 4, per ora nessun problema rilevante a Fiumicino. A Linate cancellati solo 3 voli. E di 24 ore dalla mezzanotte lo sciopero di piloti e assistenti di volo proclamato da ANPAC e ANPAV e dall'USB. Ma per far fronte alla protesta la compagnia ha cancellato il 60% dei voli programmati e con un piano straordinario sono stati riprotetti il 90% dei passeggeri. Dalle 14 alle 18 si aggiunge lo sciopero proclamato dai sindacati confederali del trasporto aereo anche per personale di terra e compagnie straniere. Rimangono da sciogliere i nodi della protesta una nuova riunione tra l'Italia e i sindacati convocati da Saereo sul contratto collettivo scaduto a dicembre e in programma domani venerdì mattina alle 9. Ieri le sigle di categoria hanno deciso di non andare all'incontro perché per riprendere la trattativa chiedevano prima di rimuovere il tema del regolamento aziendale che Alitalia vorrebbe applicare dal 1 marzo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca con gli arresti per una vicenda di caporalato per la morte di una donna. Sono 6 le persone arrestate da Polizia e Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della Procura di Trani avviata all'indomani della morte della bracciante agricola Paola Clemente, avvenuta nelle campagne di Andria il 13 luglio del 2015. Le attività investigative hanno messo in luce come un'apparente lecita fornitura di braccianti agricoli attraverso agenzie di lavoro interinali mascherasse in realtà una vera e propria forma di caporalato. Uno dei legali di Paola Clemente, Pasquale Chieco. Paola è stata l'emblema dello sfruttamento dei lavoratori, l'emblema di un bisogno di lavoro che determina l'accettazione di condizioni che oggi sarebbero impensabili in una economia del terzo millennio. Gli arrestati, tutti residenti nel Barese e nel Tarantino, sono 3 dipendenti dell'Agenzia di Lavoro Interinale di Noi Cattaro, il titolare della ditta addetta al trasporto delle braccianti agricole e una donna che aveva il compito di controllare le lavoratrici sui campi. Agli arresti domiciliari invece la moglie del titolare della ditta di trasporto che, fingendo di essere un'attiva bracciante agricola, percepiva indebitamente contributi pubblici. Giampaolo Patruno, primo dirigente della Polizia di Stato. Questa è la prima volta che si fa un'indagine di questo genere, un'indagine un po' più complessa, ma soprattutto c'è stata un'attività certosina proprio sulle carte. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda della Roma, dello stadio, del Movimento 5 Stelle, il punto di oggi. Si può fare, ma non a Tor di Valle, la zona è a rischio esondazione, non appare sicura, ha detto ieri Grillo, mischiando così nuovamente le carte in tavola sullo stadio della Roma, vicenda infinita che però dovrebbe finalmente chiarirsi domani. Nel primo pomeriggio infatti previsto l'incontro decisivo tra Comune e il club giallorosso. Domani dunque la Raggi dovrà prendere ufficialmente posizione. In queste ore intanto la sindaca ha dato il compito all'avvocatura del Comune di revisionare la delibera sulla pubblica utilità votata dall'amministrazione Marino a dicembre 2014 per capire se è possibile annullarla in toto, in parte o rimodularla, anche perché in ballo ci sono cause milionarie che l'AS Roma farebbe scattare in caso di rinuncia al progetto. Ieri i vertici della società hanno avvertito, dopo 5 anni di lavoro non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor di Valle, se non si fa sarebbe una catastrofe, ha twittato il patron Pallotta. E intanto in questa fase di impasse torna a lanciare la candidatura del suo comune il sindaco Dem di Fiumicino Esterino Montino. Io sono disponibile, ho un'area edificabile di circa 300 ettari, è infrastrutturata, se voi non volete decidere, avete delle perplessità, io sono pronto. Bisogna sapere che è possibile farlo da un'altra parte. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un'altra vicenda, per così dire, paesaggistica di queste ore che riguarda un'altra grande città, ossia Milano, il tema delle palme e dei banani che sono stati piantati questa notte. È stato completato il nuovo arredo di Piazza del Duomo a Milano. Accanto alle contestate palme, oggetto di polemiche politiche ed atti vandalici, ora ci sono anche i banani. A finanziare la posa dei nuovi alberi, sempre la catena di caffetterie Starbucks, che ha vinto il bando del comune per la realizzazione e la cura del verde e che nel 2018 arriverà a Milano con il primo store. Si cerca intanto ancora di dare un nome all'autore dell'incendio delle palme dello scorso fine settimana. Si tratta di un giovane italiano sui 20 anni che è probabilmente però incensurato e questo rende difficili le ricerche, ha chiarito l'assessore comunale alla sicurezza Carmela Rozza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo a parlare di pubblico impiego, perché in una riunione oggi del Consiglio dei Ministri dovrebbero essere varati degli altri decreti che riguardano appunto la pubblica amministrazione. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buongiorno, ciao Gianni. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che cosa c'è dentro questi decreti? Allora, sono sostanzialmente due i decreti sul pubblico impiego importanti che arrivano oggi al primo via libera del Consiglio dei Ministri, quello che riforma il testo unico del pubblico impiego, cioè tutte le regole del lavoro pubblico, a partire dal codice disciplinare, dalle regole sui del rapporto fra contratti e legge nel rapporto di lavoro, licenziamenti e così via. Cosa succede in quello? Si ampliano le fattispecie procedure disciplinari che possono portare al licenziamento e soprattutto si prevedono tempi certi per il procedimento disciplinare che deve concludersi in 30 giorni e sanzioni per i dirigenti che non attivano in tempo il processo disciplinare. Poi si riforma, diciamo, il rapporto fra legge e contratti, viene lasciato ai contratti una più ampia serie di materie sulla regolazione del rapporto di lavoro. Nell'altro decreto, quello che riforma la riforma Brunetta sui premi di produttività, si lascia maggiore libertà alle singole intese di decidere come valutare e come distribuire i premi di produttività della pubblica amministrazione. Noi sappiamo che nella pubblica amministrazione sono dati quasi sempre in maniera indifferenziata fra tutto il personale, perché le valutazioni non ci sono, sono formali e così via. Nel 2009 si tentò di porre delle griglie rigide con percentuali fisse che non sono mai entrate in vigore, ora si torna indietro ma chiedendo, diciamo così, di vigilare sulla differenziazione effettiva. Questi due decreti sono al primo via libera, poi partirà il confronto con il Parlamento, con i sindacati, le regioni e gli enti locali per riportarli in Consiglio dei Ministri entro 90 giorni, ma anche prima, per il via libera definitivo. Sono i due decreti, diciamo così, più importanti della riforma Madia, perché fissano le regole che permettono ora di riavviare la trattativa sui rinnovi contrattuali che sono fermi da 8 anni. Ti ringrazio, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Ci spostiamo all'estero e andiamo a Mosul, in Iraq, dove prosegue l'avanzata contro lo Stato Islamico. Le forze governative irachene dicono di aver preso il controllo della pista dell'aeroporto, appunto, di Mosul. Sentiamo. Dopo 4 giorni di combattimenti accaniti, le forze irachene, affiancate dall'alleanza internazionale a guida americana, hanno investito la zona dell'aeroporto internazionale di Mosul, seconda città irachena, caposaldo delle armate dell'ISIS in Iraq. Lo scalo aereo si trova sulla sponda occidentale dell'Eufrate, ai margini di una zona densamente popolata, a sud del centro cittadino di quella che prima della guerra era una città di 1 milione di abitanti. Occupata dallo Stato Islamico dalla primavera del 2014, Mosul Est è stata liberata dalle forze irachene il mese scorso. La battaglia ora prosegue sulla sponda occidentale, difesa dall'esercito nero. La coalizione guidata dagli Stati Uniti ha giocato un ruolo chiave nel sostenere le forze irachene, con attacchi aerei e veicoli corazzati ad affiancare i militari in cammino. Il Pentagono ha peraltro confermato la presenza di militari americani feriti, una notizia che arriva nel momento in cui l'amministrazione Trump starebbe valutando l'invio di nuove truppe da combattimento in Iraq, ma anche in Siria, per accelerare la lotta all'ISIS. Gigi Donè, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci scrive un ascoltatore via SMS: se nella nostra carrellata iniziale di notizie ci siamo per caso dimenticati dei pianeti simili alla Terra scoperti dalla NASA. No, non ce ne siamo dimenticati. La notizia di ieri, ne ha parlato Nicoletti per un'ora, riparliamone tra 40 anni luce, quando forse finalmente riusciremo ad arrivarci. Il traffico, e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e inizieremo riprendendo da una storia della quale ci siamo già occupati. quello della pallavolista di Palmi, Tiffany, che prima era un uomo e che sta suscitando tante polemiche all'interno anche del mondo della pallavolo, tante polemiche arrivate anche dagli avversari. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di quello che dice il Centro Studi di Confindustria, dice che la crescita è inadeguata per uscire dalla crisi. Ci siamo occupati del mille proroghe, dello stadio della Roma e dell'arrivo dei banani in Piazza Duomo a Milano e di una vicenda brutta di caporalato, una donna morta un anno e mezzo fa, una donna italiana, e oggi 6 arresti, una vicenda della quale tra l'altro torneremo a parlare tra poco. Vorrei capire tra l'altro, tra tutte queste cose delle quali ci siamo occupati, e lo chiedo all'ascoltatore che ce lo dice, quale sarebbe la fake news, giusto per curiosità mia. Iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo andando tra Palmi e Brescia, perché la vicenda è quella della quale ci siamo già occupati, di una pallavolista che si chiama Tiffany e che fino a poco tempo fa era un uomo ed è stata tesserata e gioca in A2 appunto con la squadra del Golem Palmi. Abbiamo parlato con il suo allenatore nei giorni scorsi, abbiamo raccontato la sua storia, abbiamo raccontato anche le polemiche che la cosa sta generando, perché una parte del mondo della pallavolo si interroga se sia corretto o no far giocare questa persona proprio per il fisico che è un fisico da uomo, almeno questo sostengono. Siamo con Emanuele Catania, direttore generale del Volley Millennium Brescia, che è una delle prossime avversarie del Golem Palmi, sono tra un paio di giornate di campionato se non erro. Catania, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Sì, tra due giornate di campionato. Lei l'ha detta brutale, prendiamo tre trans e vinciamo noi. Ma chiaramente, scusi. Quella è una provocazione, ovviamente, no? Nel senso che un po' fortina come provocazione. Ma certo, la provocazione era, però, se mi consente, al termine di un ragionamento molto lungo, molto complesso e alla quale sono state fatte tante premesse, no? È chiaro che poi giornalisticamente spesso si cerca anche un po'. Noi siamo cattivi, cerchiamo il titolo. Infatti, le premesse sono: A, nessuno ce l'ha con Tiffany, nessuno ce l'ha con Palmi, nel senso che è più il caso e l'etica sportiva che sta a monte, secondo me, e a farne un caso sui generis, per cui poi bisognerà andare a prendere delle soluzioni o comunque a normare probabilmente meglio determinate cose, perché ad oggi la normativa è un po' ampia, le maglie sono un po' larghe, siamo a due transgender in due anni che mettono piede in Serie 2, la cosa forse non è la 1, non ha avuto la stessa rilevanza a livello nazionale, già quest'anno ci sono, diciamo, dei discorsi in più, e poi ci dobbiamo precisare che non è tanto Brescia contro Palmi, perché poi quasi tutte le altre società più o meno si allineano ai nostri dubbi, ai nostri dilemmi, no? Quindi non c'è uno scontro, però c'è il sollevare un problema e dire, le mie atlete mi dicono: Emanuele, noi cosa dobbiamo fare? Siamo un po' preoccupate da questa cosa, la società cosa ne pensa? La federazione cosa ne pensa? La Liga cosa ne pensa? È un problema. Voglio dire agli ascoltatori, giusto per essere chiaro, perché queste cose non tendono a non capirle. Allora, al momento Tiffany non è nemmeno più una trans, è una donna a tutti gli effetti, cioè questo chiariamolo. Poi perché qualche ascoltatore dice si crede una donna, non si crede una donna. A questo punto è una donna ed è anche legalmente una donna, insomma, quindi sente una cosa, però voglio dire, parliamoci chiaro, un processo che porta una persona ad un cambio di sesso non è un processo facile, è un processo difficile, complicato, che comporta tutta una serie di turbamenti e, a quanto sostiene lei, anche una diminuzione della forza fisica. Quindi, non so, in qualche modo anche le cose si equilibrano, per così dire. Forse non abbastanza, mi spiego meglio. Vero, sostegno a questa ragazza che ha fatto questo percorso, non deve essere facile fare quell'operazione a livello anche psicologico, a livello ormonale, visto che devono fare dei cicli di ormoni, a livello sociale deve essere stato difficile, e quindi, ripeto, nulla contro di lei, ma il fatto che ci sia sicuramente una diminuzione di forza, perché diminuisce il testosterone, forse non è abbastanza in certi casi, non è sufficiente, perché se noi guardiamo come ha giocato e quello che ha fatto, è evidente che c'è ancora una netta sproporzione fra la corporatura maschile con la quale lei si è sviluppata in età adolescenziale sotto ormoni maschili, ok, che questo crea una disparità fra le nostre atlete che non hanno avuto uno sviluppo maschile. Sì. È chiaro che se adesso le togliamo un pochino di forza, magari un po' meno potente di un uomo, ma in una due maschile, questa fa i buchi per terra, basta vedere l'ultima partita. Senta Catania, qua qualche ascoltatore ci dice, forse una valutazione possiamo prendere, no? Così come lei ha provocato da una parte, la provoca dall'altra. Tifanni è alta 1,93 m. Un ascoltatore ci scrive via WhatsApp, se fosse stata alta 1,60 m non avreste detto niente. Allora, partiamo dal fatto che l'anno scorso, noi non eravamo in A2, siamo una neopromossa, era presente un altro caso simile, solo che era un libero, ok? Un libero poco alto, un po' più scricciolo, diciamocelo. E questo non ha creato così tanto malcontento, no? Bisognerebbe chiederlo a chi c'era in A2 l'anno scorso, ovviamente. Però sì, chiaramente è questo il tema difficile, che ci sono anche casi e casi. È chiaro che nel mentre ti trovi davanti una montagna, è chiaro che sposta sicuramente degli equilibri in più rispetto alla bravissima ragazza che c'era in forza all'Olbia l'anno scorso nel ruolo di libero. Sicuramente è un tema delicatissimo. È un tema delicatissimo. Secondo lei quale può essere la soluzione da questo punto di vista? Ma me l'hanno chiesta in tanti, anche un po' a bruciapelo nelle giornate scorse. È chiaro che secondo me forse un ciclo ormonale è un po' poco, poi non sono un endocrinologo, ovviamente non sono del mestiere, però è chiaro che se si vuole pareggiare i conti con madre natura bisogna farlo bene. Adesso che un ciclo di ormoni tolga il 40% della forza a un omone del genere, o un donnone del genere, a questo punto forse non basta, o semplicemente anche sproporzionata per la categoria in cui è. Però è chiaro che vanno adottate delle misure, perché altrimenti ritorno alla mia provocazione, no? Nel senso di dire entriamo in un mercato diverso e ognuno poi fa le proprie valutazioni. Io cerco solamente di tutelare gli investimenti. Lei ha detto vado in Brasile, metto sotto contratto 3 trans e vinco il campionato. Ma sì, sa anche perché ci sono delle norme che non sono chiare, per alcune addirittura basta il basso livello di testosterone, però questo livello di testosterone, la soglia è piuttosto alta, se noi prendiamo Usain Bolt, ok, questa notizia che è apparsa sui giornali, in alcune fasi della sua preparazione fisica ha un testosterone inferiore a quello di norma, quindi se possono gareggiare anche i non operati, è sufficiente un livello ormonale di quel tipo. Anche lo stesso Bolt potrebbe gareggiare come donna, e questa è la cosa che probabilmente non va bene, che le federazioni devono capire o aiutarci a capire, perché poi è chiaro che dobbiamo stare tutti al passo coi tempi. Cioè, il punto è, dice lei, Catania, il punto è, si diano delle norme precise su questo, visto che tra l'altro anche il CIO dice, no, che in determinate condizioni le transessuali possono gareggiare con le donne. Cioè, si dia qualcosa di più specifico per quanto riguarda ogni specifico sport, dice lei, mi sembra di capire. Esatto, altrimenti si formano delle maglie entro quale qualcuno può infilarsi, anche a norma di regola può anche essere giusto, poi da vedere, nel senso che da un'inchiesta che è emersa proprio ieri sera, bisogna vedere poi queste valutazioni ormonali che sembrano non siano state fornite alla Federazione Internazionale, ma questo poi è un altro discorso, rimaniamo sul discorso generale. Sicuramente sì, servono delle norme un po' più precise. Che lei sappia, Catania, mi scusi, ce lo chiede un ascoltatore, secondo me è uno snodo interessante. Ci sono esperienze opposte che voi sappiate e che riguardano il vostro sport? Cambi di sesso all'inverso. Esatto. No, che io sappia, no, casi eclatanti quantomeno no. La ringrazio. Grazie Emanuele Catania per essere stato con noi, appunto direttore generale del Brescia, della Millennium Brescia, squadra di A2 di pallavolo. E adesso ci spostiamo in Puglia per una vicenda che riguarda un abbracciante, ve l'avevamo raccontato un anno e mezzo fa, morta sostanzialmente di fatica, così possiamo dire, nei campi di Andria, una 49enne, Paola Clemente, che durante appunto il lavoro nei campi è morta a quanto pare di infarto. Oggi ci sono stati 6 arresti di persone che sono considerate sfruttatori di questa donna. Ci sono anche testimonianze terribili e dolorose che arrivano da alcuni testimoni e che emergono dalle carte dell'accusa. Alcune donne si sono lamentate, dice una testimone, dei giorni mancanti. Qualcuno ha detto che noi lo sapevamo, quindi non dovevamo lamentarci. Nessuno ha più parlato perché si ha paura di perdere il lavoro. Anche io adesso ho paura di perdere il lavoro e di essere chiamata infame. Come vedete, la situazione è questa e riguarda anche gli italiani. Spesso parliamo dei ghetti nei quali vivono i migranti, come quello di San Severo, del quale ci siamo occupati nelle ore scorse. E però appunto questo lavoro nei campi, sfruttato in questo modo, riguarda evidentemente anche gli italiani. Abbiamo in linea Giuseppe De Leonardis, che è il segretario generale della CGIL Barletta Andria Trani. Buongiorno De Leonardis, benvenuto. Buongiorno. Allora, la vicenda di oggi e gli arresti di oggi sono particolari, anche perché in manette è finito il titolare anche di un'agenzia interinale. Cioè, di fatto, quello che si è capito è che era una sorta, almeno secondo la tesi degli inquirenti, che poi andrà dimostrata in giudizio, una sorta di caporalato nascosto, per così dire. Sì, noi l'abbiamo sempre denunciato. In una situazione in cui diciamo le evasioni contrattuali, il sottosalario, la mancata applicazione delle norme dei contratti, dagli orari eccetera, è molto diffusa sul territorio pugliese. Noi stimiamo attorno al 70-80% di inapplicazione dei contratti. Che senso ha l'agenzia interinale se l'azienda già non applica i contratti? Perché ricorre un'agenzia che è più esposta alla legge? Questo è un interrogativo, perché a nostro avviso, questo l'abbiamo non legato solo alla vicenda Paola, ma abbiamo avuto altre esperienze, altre vertenze, l'abbiamo sempre denunciato, perché le aziende si andavano a mallevare da responsabilità, scaricando in capo alle agenzie quelle che sono la legittimazione e la legalizzazione delle evasioni contrattuali. Questo è il tema che chiama in causa un modello di sistema di impresa. Sì, o con un aggiramento della legge, comunque, insomma, De Leonardis, di questo stiamo parlando sostanzialmente. Ma perché c'è un'idea che diciamo le illegalità sono impunite, perché molto spesso lo Stato è inefficiente. Cioè, basta dire che di fronte a evasioni complessive, sia delle agenzie che sono a nostro avviso nuove forme di caporalato legalizzato, e molto spesso le aziende non hanno revoca della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto l'obbligo per avere alcune agevolazioni all'applicazione dei contratti, non ci sono controlli per quanto riguarda le risorse pubbliche e comunitarie, e quindi, siccome non succede niente, salvo se noi vediamo le ispezioni, siamo attorno l'anno scorso 1600 ispezioni su circa, dall'Istat censisce 220.000 imprese agricole, ma le imprese medio-grosse sono attorno a oltre 40.000, quindi se vediamo le ispezioni sono irrisorie, quelle che si fanno non vengono colpite perché il sistema della parvenza della legalità è molto diffusa, e quindi capite bene qual è il meccanismo esistente. Cioè, c'è proprio un'assenza dello Stato e una sfiducia anche da parte dei lavoratori che convivono con il ricatto e la negazione di più elementari diritti e di libertà. De Leonardis, molto brevemente, voi siete riusciti a farvi un'idea di quanto sia il lavoro di questo tipo, il lavoro illegale, rispetto al lavoro legale, reale, certificato nei campi delle vostre terre? Noi lo diciamo, per quanto riguarda, ci sono varie forme di illegalità, quello contrattuale in applicazione dei contratti, con punte in molte realtà diciamo che riguardano soggetti deboli del mercato lavoro, in particolar modo le donne e gli immigrati, in cui i salari non vanno oltre il 50% di quello che le aziende denunciano sulle buste paghe. Poi c'è tutto il pezzo del lavoro nero. Dai dati ispettivi è censito che c'è un tasso di irregolarità circa il 58% in Puglia, di cui l'80% è il lavoro nero. Quindi se ci aggiungiamo il lavoro nero, noi stimiamo che solo di lavoratori al nero, che non sono minimamente neanche denunciati agli istituti eccetera, noi stimiamo oltre 40.000 lavoratori qua in Puglia. Irregolari. La ringrazio. Grazie Giuseppe De Leonardi. Iris, segretario generale CGIL Barletta Andria-Trani, per questo racconto del Leonardis che molto si è occupato anche di questa vicenda. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo cosa succede sui mercati e poi torniamo sul tema dell'aborto e dell'applicazione della legge 194 dopo la decisione del San Camillo. Se ne è parlato anche questa mattina in 24 Mattino, di bandire un concorso per assumere ginecologi non obiettori. Alcune regioni, oltre al Lazio, stanno pensando a muoversi nella stessa direzione. Parleremo con l'assessore del Molise, Molise che ha le percentuali più alte di medici obiettori. Siamo intorno al 90%. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: Confindustria, crescita inadeguata per uscire dalla crisi. Il ministro Padoan parla, dice l'Europa apprezza le riforme, ma bisogna fare di più. Mille proroghe verso il via libera, il governo annuncia che cambierà la norma su Flixbus. Oggi intanto sciopero dell'Alitalia. Lo stadio della Roma, ancora polemiche dopo l'idea di Grillo di farlo da un'altra parte. Fiumicino si candida. Caporalato, 6 arresti per la morte di una bracciante italiana un anno e mezzo fa. In manette anche il titolare di un'agenzia per il lavoro interinale. Dopo le palme arrivano i banani in piazza Duomo a Milano. Sono una quarantina piantati nella notte. Ultime notizie che arrivano in questo momento dagli Stati Uniti. Secondo un sondaggio di CBS News, la popolarità di Donald Trump cala ulteriormente. Arriva al 39% degli americani che ne approva l'operato, mentre il 51% lo giudica negativamente. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia prosegue con il Molise. Partiamo dalla vicenda del San Camillo, ve l'abbiamo raccontata ampiamente in GR24, ne hanno parlato questa mattina anche Alessandro Milan e Oscar Giannino, l'ospedale San Camillo di Roma che decide di bandire un concorso per medici non obiettori. Ci chiede un ascoltatore, tra l'altro, se un non obiettore nel corso della professione arriva a cambiare idea e diviene obiettore, viene licenziato. In questo caso, secondo i termini di questo concorso, sì, è presumibile, è molto probabile, è molto molto probabile che ci saranno ricorsi e questa vicenda finirà in giudizio, finirà in tribunale da qualche parte, probabilmente qualche tribunale amministrativo. Però il tema è che parliamo dell'applicazione della legge 194, quella sull'interruzione volontaria di gravidanza. In Molise, il Molise è da record, nel senso che obiettore di coscienza il 93% dei ginecologi. Siamo in linea con Marinella D'Innocenzo, direttore generale per la salute della Regione Puglia. Buongiorno, benvenuta. Della Regione Molise. Della Regione Buongiorno. Molise, abbia pazienza, guarda, abbia pazienza, abbia pazienza. Mia madre che è molisana non mi perdonerà. Senta D'Innocenzo, mi dica una cosa, innanzitutto com'è possibile una cosa di questo genere? È un numero che mi sconvolge, devo essere sincero. Poi è vero che ce ne sono ci sono percentuali simili, perché siamo al 90% in Basilicata, al 90% nella provincia autonoma di Bolzano, quindi non è un fenomeno solamente meridionale, giusto per dare l'idea e far capire agli ascoltatori, ma com'è possibile? Beh, glielo spiego subito. Intanto mi dispiace dover rappresentare questa percentuale, perché la percentuale è, come dire, un rapporto tra quello che c'è e quello che si vuole indagare. Quindi il problema è che noi intanto abbiamo solo 3 punti nascita. In questi punti nascita contiamo dal 2007 il blocco del turnover, per cui abbiamo pochissimi ginecologi, ed è chiaro, tra questi ginecologi ce n'è uno di ruolo, tra quelli strutturati, che è completamente dedicato alle IVG. Se lei pensa che in altre regioni ci sono tanti professionisti, e tra questi non ci sono non c'è personale dedicato. Il problema non è quanta percentuale c'è di obiettori, ma quanto il servizio funzioni e dia risposte ai bisogni e ai diritti delle donne di poter usufruire di un servizio come le interruzioni volontarie di gravidanza. D'Innocenzo, però mi scusi, questo non è perfettamente misurabile e noi lo sappiamo perché quante donne probabilmente vengono là, si informano e poi alla fine magari decidono di andare in Puglia. È giusto che, visto che di Puglia parliamo, insomma, e di regioni sostanzialmente confinanti, o purtroppo molte donne, e i dati sembrano confermarlo, che decidono di ricorrere all'aborto clandestino, magari praticato dagli stessi ginecologi obiettori che poi si rifiutano in ospedale. Comunque, insomma, questo è un altro discorso, prego. Io guardi, le posso dare dei dati che sono relativi al Molise, di cui teniamo anche conto della mobilità passiva, cioè del trasferimento di molisani presso altre regioni, e l'incidenza del trasferimento è bassissima. Peraltro nel corso degli anni, lavorando come stiamo facendo da quando abbiamo il piano sanitario, cioè il programma operativo straordinario, abbiamo pianificato sicuramente un investimento su quella che è la rete materno-infantile e il sostegno anche alle decisioni, e quindi alla possibilità che la donna possa essere presa in carico dai servizi consultoriali, dai servizi sul territorio. Poi abbiamo avuto un decremento del numero degli aborti nell'arco di questi ultimi 3 anni. Siamo passati da 415 nel 2013 a 356 nel 2016. Ora, è chiaro che il problema delle interruzioni volontarie di gravidanza tiene a un problema di culturale e valoriale, nel senso che i servizi di interruzione dedicati all'interruzione volontaria di gravidanza non possono essere considerati residuali, ed è il motivo per cui molti medici spesso sono obiettori. E perché fare aborti tutta la vita non è un'attività che può essere in qualche modo prefigurata. Peraltro le amministrazioni sono costrette, lì dove ci sono tanti obiettori, a fare una scelta come quella che è stata fatta al San Camillo, perché è un diritto che va assicurato, è un diritto esigibile, le donne hanno il diritto di vedere attuata la 194. Se non ci sono possibilità, non è un requisito di base, cioè non è un requisito per fare un concorso, ma può essere un requisito per poter destinare i servizi. In questo caso noi abbiamo il dovere come regione di rendere esigibile un diritto nei confronti delle donne. Certamente, quindi non si può escludere, se ve ne fosse bisogno, di innocenza, che si indica un concorso simile a quello del San Camillo. Noi per il momento non ne abbiamo bisogno, ma se dovessimo trovarci nelle condizioni in cui si è trovato il San Camillo, sicuramente valuteremmo questa opportunità, perché voglio dire, di contro che si fa? Non si assicura un diritto a un cittadino previsto per legge? E le donne come farebbero a vedersi riconosciuto un diritto che ancora ha così tante difficoltà ad essere attuato e realizzato? Le dicevo, il fatto che negli anni abbia inciso così tanto col suo aspetto culturale e valoriale, per cui i servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza sono stati considerati spesso nelle organizzazioni residuali, sta comportando tutto quello che è successo al San Camillo. Allora, le donne hanno il diritto sacrosanto di poter scegliere una maternità responsabile, e nell'ambito di questo di poter anche scegliere di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza con tutti i requisiti e criteri previsti dalla legge, ma altrettanto le organizzazioni devono mettere nelle condizioni i medici di poterlo fare all'interno di uno sviluppo di carriera che non può essere solo e unicamente interruzione di gravidanza per tutta la vita. Allora deve stare dentro un progetto di offerta di servizi dell'area materno-infantile. Ecco, forse io quello che posso pensare, sì, che noi regioni dovremmo fare è proprio quello di assicurare che un percorso di carriera, sì, dei ginecologi e degli ostetrici sia in qualche modo contemperi anche l'interruzione volontaria di gravidanza. Allora, ma non perché ci sono dedicati. La ringrazio. Grazie Marina dell'Innocenzo, direttore generale per la salute della regione Molise. Io non so che cosa viene in mente a un ascoltatore che scrive: Spezia, peccato che tua madre non abbia pensato all'aborto. Io non lo so, io non so che cosa vi passa per la testa per scrivere una roba di questo genere. Ma veramente, ma veramente. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.